diciamo tranquillo lo stesso. Tanto quando si è in molti non si capisce più nulla, è meglio essere in pochi buoni. No, quello sono finalmente d'accordo, io ripeto, adesso in questi due giorni, tutti gli altri giorni io ogni giorno sono sempre acceso, non c'è nessuno quando in altre frequenze. Intanto faccio qualche collegamento, ci provo, è già mai in posto, è una cosa veloce, però mi diverto ugualmente, sto sempre facendo radio, e non, ripeto, non so mai smettere radio a casa. Sì, mi sono accorto che c'è molte persone che sembra che non gli frega più niente, bisogna fare pazienza. Si aspetta la propaganda e qualcuno, come detto, dei fini auguri ogni tanto e ti fa una chiacchierata, mi va bene uguale alla fine. Questa sera ero con Gigi Vulcan e con Giampaolo Colottore, abbiamo fatto la chiacchierata, poi Giampaolo è arrivato a gente e si è dovuto allontanare. Gigi ha notato che il caffè non è più rientrato, quindi ho preso e ho girato e diciamo ho fatto un po' di ascolto sui 7.000 e cose del genere. No, tu mi acquistai, stai usando sempre quell'apparato famoso. Cosa non è? Togliami una curiosità, se stai utilizzando ancora quell'apparato famoso? Sì, sempre lui è. Facendo benissimo. E perché se l'ho regolata a pochi watt? Sicuramente era perché era troppo pompato. No, qui sto usando il Galaxy 9-10 a picchi positivi a 15, guarda, ti sento non bene, veramente bene, non bene, benissimo. Sì, sempre lui è Antonio, sempre lui. Vabbè. Perché a volte quando gli dai troppi watt ti rovina la radio, capito? La senti troppo compressa, troppo... Invece ho trovato una regolazione fatta da me, ascoltata con l'altra radio e via. Capito, dai, almeno gli assidi già non erano di quelli fasulli, perché c'era qualcosa che non andava alla fine. Ehi, già può uscire... Questo qui lo sai che non ha bisogno né di niente, di uscire con i fatti di lui, però è inutile che tu fai uscire un bel forte quando puoi, magari non esce chiara la radio. Ma adesso non so quanto sia regolata, ma dicono sempre che deve per forza lavorare a quel tanto di volte, se no si rovina, ma mi sembra strano, se c'è questa regolazione, diciamo, hai la possibilità di regolare e l'apparato non dovrebbe avere problemi, per quanto ne capisco io. Sto facendo 28 watt con picchi a 30. Perfetto, dunque, bene o male dovrebbe essere una via di mezzo, ecco, non dovrebbe dare problemi, dandogli questa regolazione. No, i problemi le dà se la mandi a un watt, due watt, così, non esce, proprio non esce di radio. Perfetto, allora già va bene, io voglio, va troppo di lusso. Bene o male se dovete essere a metà regolazione, dai, tra una cosa e l'altra. Sì, ma ho provato in diverse maniere, perché poi a un certo punto uno ti dice una cosa, uno ti dice l'altro, devi renderti conto tu, col tuo orecchio, quale ti va più bene. E allora ho fatto il monitor, mi sono preso come monitor un apparato, ho messo le cuffie, mi sono ascoltato io. E ho detto, va bene, adesso controlliamo, facciamo, proviamo. Fino a quando ho trovato la mia modulazione ottimale. Ed è cosa buona e giusta, è perfetto, non ti preoccupare. Io personalmente, ripeto, ti sento bene per quello che te lo chiedo. E via. E niente, e altri apparati? Nulla? Nessun altro acquisto? No, Antonio, come si fa? Pochi di naviso, via. Troppe spese, troppe... Ho pagato l'assicurazione della moto, adesso me l'ho fatta in maniera che un'assicurazione mi duri 3 anni, la faccio ogni 4 mesi, poi la blocco dopo 4 mesi e la riprendo il prossimo anno, così almeno non devo stare a pagare più danni l'assicurazione. E alla fine, diciamo, la utilizzi il tanto in cui la assicuri e alla fine conviene, poi giustamente in base anche a come la usi ti fai questi passaggi e conviene. Comunque, bene o male, avendo possibilità, diciamo, qualche idea di acquisto ti ce l'hai, no? Sicuramente. Hai occhiato qualcosa che ti interessa? Sì, l'ho occhiato, lo sai quale tu mi stai provocando. Del Galaxy, il nuovo Galaxy che è uscito, quello da base, che è molto bello. Non avrò la possibilità, mi avvicino alle biblioteche e controllo e vedo un po' com'è, e mi do un'idea. E sicuramente sarà molto molto bello, e ho già, sai, a volte poi la voglia viene, capita qualche piccola possibilità, vedi da parte finché poi te l'acquisti. Quanto ci viene? Quanto ci vuole? 350 euro, una cosa del genere. E fai il doppio. Mica tu, la Savella, 600 euro. Sì, 600 qualche cosa. Ah, sembra un HF, non sembra più il tipo il Galaxy. C'ha un coso, uno smitter che è troppo bello, grande, cazzo, cioè, tipo americano proprio. Quello lo fanno in America proprio. Farete, sarà una bestia sicuramente, l'uomo cane. E qua, dimmi la sigla così me lo scrivo e me lo guardo. E allora era Galaxy DX, me lo ricordo, però non mi ricordo il numero, 595, qualcosa del genere. DX 195, è scritto DX, però il numero non me lo ricordo, insomma, ti dico la verità. Roberto Quadrato lo sa perché me l'ha fatto vedere lui, ma era uscito al lato. Aspetta, se si vedo Galaxy DX, così è. Io posso scrivere queste due iniziali e poi uscirà. D come domo d'osso, Sì, D e la X. K, quello lì è. Però di DX ce n'è un altro tipo che non è da base, che è normale, che è meglio lo stesso, ma io preferisco quello base sempre. Io addirittura pensavo non ne facessero più base, invece stanno continuando a farlo. Probabilmente c'è stata una grossa richiesta, anche a me piacciono tanto. E vedi, su lì c'è molta più, diciamo, di partecipazione per il fatto, diciamo, degli apparati, non è come qua. E dunque lì sono sempre aggiornati, vuol dire che c'è molta richiesta. Ma comunque me lo guardo, non voglio togliere questa curiosità, sa mai già 10 euro oggi, 10 euro tra una settimana e così via, poi neanche te ne accorgi e riesci a racimolarti, e è sicuramente una bella chicca. Bello, è un bel apparato, c'ha tante cose, memorie, noios blanker, gli hamburgeri dolci, mi manca solo che faccia il caffè. Sento, è sempre tratta la 27, giusto? Pagato, sì, però sembra un, te l'ho detto, sembra un decametrico, un apparato radioamatoriale, come la conformazione del disegno dell'apparato. Comunque c'è sempre la stessa grandezza del tipico Galaxy che c'ho io. Sì, quello sì. Ha sempre la stessa grandezza, però costa, vabbè, quello che c'è tu e che avevo io a suo tempo costava sulle 700.000 lire, ma non ti credere che costasse poco. Sì, quello è vero, veramente d'accordo. Dunque, meno male, diciamo, una cosa e l'altra, confrontando a almeno a 20 anni fa, diciamo, il prezzo è rimasto quasi invariato, dai, alla fine, no? E voglio dire questa curiosità, vediamo un po'. Ce ne sono belli in giro, è la verità. Qualcosa di interessante c'è, non in Italia, purtroppo devi acquistare fuori, però c'è sempre qualcosa di bello, No, piano piano già me la sto sistemando la mia stazione. Sto facendo, dai, siamo a modo mio, dai, per come la vedo io la 27. Cappa, vabbè, meglio così, Antonio. Poi quando ti vuoi fare quell'affare lì, dimmelo, che cerchiamo di farlo mettere a posto. Lo sai che ci stavo pensando a darlo, ci credi? A darlo a aggiustare? No, a darlo a venderlo. Perché, Antonio? Posso dire di vari motivi, un giorno ti spiego. Adesso vedo un po', no, è una decisione così, da decidere bene, bene, bene. Se no me lo tengo, va bene uguale. Avevo, diciamo, altri progetti, ecco. Ah, ecco, se magari ti permette un ricevitore base direttamente. Poi alla fine è uguale, non è che cambi tanto, questo è comodissimo, c'ha tutte le basi più possibili immaginabili in un solo apparato. No, proprio volevo migliorarmi più la 27 con altre gigini, ecco, tutto lì. Questa è un'idea. Adesso se devo pensare bene, vedo un po' cosa ne esce fuori, poi ho detto un po' tutta la situazione. Sì, chi mi ha detto con Cenzo lo sta riparando e va alla grande, no, per il resto funziona benissimo. Io solamente metterli i finali e basta, e lui funziona bene in ogni dettaglio, non c'è nessun difetto. Non so cos'è, che io ci avevo fatto un pensierino, perché la gente sta sempre diminuendo, Antonio, tu ci butti via i soldi, magari puoi scompare, vabbè che gli esperi se puoi sempre fare quando vuoi, capito? Te li puoi sempre fare quando ti pare di ex. Guarda il tuo letto, Marco, che poi non ti svegli, scusa che Marco c'ha sempre l'abitudine di quelli che si vicino a me, poi a portarlo dentro ci vorrei la gru. A chi lo dici? Vuoi la mia figlia, pesano che è una cosa impressionante, cercherà di prendere in braccio, sveltirli e poi coricarli e poi a dire che ti aiutino, e anche mia figlia è così, non ti preoccupare. No, io a Marco lo faccio camminare come lo zombo, cammina addormentato. E anche io mi diverto, anche mia figlia, poi dicono cose stranissime, sono ancora nel mondo dei sogni, cominciano a parlare, dicono cose proprio senza senso, e tu gli parli e ti rispondono, è impressionante. No, già mi diverto da una parte, non ti preoccupare, ripeto, anche mia figlia è così, Ma lo sai cosa mi è capito? Io non pensavo di parlare nel sogno, e ho fatto il nome di una mia collega. Nel sogno, mia moglie era al computer e io ero vicino e poi mi sono sdraiato e mi sono gudrumito. Ho fatto il nome di questa mia collega, mia moglie si è avvicinata e mi ha detto chi è, anzi l'ho detto ti piace, te è una bella ragazza, gli ho risposto io. E dice ma avete avuto qualche cosa insieme? E io gli ho detto ma ti pare che mi sputtano nel posto di lavoro? Perché la mattina mi ha detto per fare colazione e mi vede mia moglie con le mani ai fianchi, allora è solo per non sputtanarti. E so gatto, ogni figura, chissà quanto sei divertita. Comunque meno male, quando l'hai trovata in cucina era incazzato col sorriso, anzi con un mezzo sorriso, dai. Non l'ha presa così. Niente, allora ti piace questa ragazza? Te è una bella ragazza, ma non è che dà tanta soddisfazione a me. Ma te è una bella ragazza. Cioè, ma non c'è mai stato l'altro di voi, ma ti pare che mi sputtano il posto di lavoro? Certamente già con quella risposta. Lo sai come sono le donne, no? Pensano subito al male. Ma tanto, figli, cazzo, io non sapevo di parlare, capito? Non avevo mai fatto. Deve essere un sonno proprio di quello profondo della stanchezza, che ne so, un dormivideo, non lo so. Praticamente ho parlato, dice che rispondevo subito quando mi faceva le domande. Ho già trovato perfettamente al punto giusto. Adesso minimo, quando capita che inizia a fare nel sonno, lì è sveglia, ne approfitta, quello è poco ma sicuro. No, ma diciamo che non avevo niente a temere, solo diciamo una commessa che è più amica delle altre, nel senso che ci facciamo regali ai compleanni, tutte queste cose qua, abbiamo un rapporto d'amicizia e si confida con me qualche cosa, però niente di più. No, perché tanto scherzando, no, già sono cose belle anche quelle, e poi specialmente in ambito del lavoro, guarda, la cosa migliore per collaborare è lavorare bene senza avere problemi, e sarebbe stato bello che tutti fossero così, è la verità, ne ho avuto anche io esperienza, sicuramente anche tu un po' come tutti, ma è una cosa bella, per carità, dovresti essere fortunato. Il problema è che lei adesso ha finito e che hanno aperto un ristorante in famiglia e lo gestiscono la madre e due sorelle, capito? E quindi lei adesso non c'è più. Però lavoravo bene, ti ripeto, ci andavo volentieri al lavoro, nel senso che in un negozio avevo due commesse che mi erano molto amiche, che quando arrivavo per dire mi facevano trovare il gelato, io riportavo la Fainé quando uscivo dal lavoro, passavo e riportavo la Fainé, perché loro continuavano a lavorare magari, e ci scambiavamo questi gesti di magari piccoli gesti, però le facevano bene. E alla fine mi senti, capita l'occasione, vai in questo ristorante e con la scusa Maggi ti fai visita, veramente ti fanno lo sconto. Poi se qualche volta mi ha detto su internet, vieni, sei disgraziato, non sei più venuto a trovarmi, e molte volte me lo dici, mi invita, fanno delle serate anche latinoamericane, messicane, eccetera, eccetera, dove ci sono proprio i cantanti che fanno ballare la gente, cose, capito? È un locale che praticamente lavorava la sorella lì prima, lavorava la sorella, era dipendente, poi questo qui doveva mollare la gestione, allora gli ha chiesto se doveva lì la sorella, e ha chiesto aiuto alla madre, è entrata la madre e le due sorelle stanno collaborando tutti e tre. Questa è a Sassari a Porto Torres? No, no, è fuori, né a Sassari né a Porto Torres. Ma non dico dove, se no poi riescono a capire chi è e chi non è, e mi dà fastidio, tanto dico verticale. Ah, è perfetto, non c'è nessun problema, no. Evita qualsiasi cosa qua, perché è veramente, da quanto impressionante mi fa schifo, è vero, lascia perdere. Hai capito, quindi, niente, ci siamo, l'ho aiutata, un periodo che lì si è lasciata con ragazze, coso, me ne ha parlato, è stata un po' male, gli ha preso la moto che gli dava per venire a lavorare, l'ha accompagnato a casa, diciamo che abbiamo sempre avuto un bel rapporto, e in quel negozio ci andavo molto volentieri con la verità, perché c'erano persone in gamba. Buono, ma grazie, che sicuramente ti capita l'occasione già di fare un salto, già passare una bella serata, ma più che bene, di lusso. Quando mi ha presentato il suo ragazzo, mi ha presentato e ha detto, questo qui è il mio collega, amico più grande che c'è, un grande uomo. Così gli ho detto così al ragazzo, il ragazzo mi ha guardato, un po' ingelosito secondo me, un po' mi ha guardato come gli è cazzo, come ti va. Ah, e beh, giustamente, sicuramente tu ti sei trovato bene, sai come sono gli uomini, no? Che trovate la propria donna, i Dio mio, io cosa sono, una vecchia? No, vabbè, diciamo che l'ho aiutata in un momento magari che era molto giù e cose, abbiamo parlato molto, ho cercato di farla un po' ragionare e cose, e vabbè, diciamo che quando lavoro finisce blu. Ha detto che era troppo geloso il ragazzo, che non poteva vivere così. E Massimo, è stato ultimamente, la gente sta uscendo fuori, sia specialmente le madri che gettano i figli dalle finestre, un sacco di sparatori, uomini gelosissimi, no, veramente, invece di avanzare la situazione sta peggiorando, hai notato ultimamente le notizie di ogni giorno? Sì, poi non si parli dell'America che prendono in ostaggio classi intere di scuola, sparano insegnanti, alunni, quanto c'è. Cioè in America c'è la vendita delle armi così, come un giocattolo, tu vai e te la compri. Sì, quello è vero. Se hai notato, non so se hai fatto mai caso, se guardi a fare fatto, con Don Tom John, è l'altro, come, non mi ricordo come si chiama, che vanno a comprare i lotti alle aste, poi giustamente frugano e lo rivendono, e in ogni puntata sono sempre armi, in ogni angolo, sì, lì sì, ma bene o male vedo che anche qua, volendo, se uno vuole trovare qualcosa del genere, sotto banco qualcosa la trovi anche qua, qui giustamente uno è libera vendita, però sotto banco riesci sempre a trovare qualcosa. Sì, col numero di serie a braso, sì, rubate, così. 100 euro, te la vedo, 100, 150 euro, una pistola, già lo so che li trovi, e a voi, se vuoi trovarla già la trovi, ma non è quello il problema. Il problema è che lì c'è proprio la libera vendita, se ti trovano l'arma in tasca, la polizia non ti va di nulla, è normale. Ci sono quegli spray per le donne, quelli praticamente che servono per difendersi, che li butti negli occhi agli aggressori e gli fanno mezzo cicchi. E quella a peperoncino? Non si possono usare, lo sai queste cose. Io so se li ho visti, guarda, in un'armeria, questo spray a peperoncino. No. Io l'unica arma che ho in casa mia è la pistola che c'è il e per tirargliela in testa, volendo la puoi modificare. No, comunque lì in Viale Italia, mi ricordo di averlo visto, stavo guardando una palestra, mi sono sempre piaciute le palestre, gli archi, e c'era lo spray peperoncino per difesa personale, ma dovrebbe essere valido qua in Italia, almeno quello, non ci dovrebbe essere problemi. Io sapevo che non si poteva portare, che era sempre un'arma in brutto. Mi piacciono molto le pattaglie, di quello già ne ho. Sì, anche a me piacciono, però avrei preferito una palestra e un arco, e mi sono sempre piaciute, la verità, ci sono diversi prezzi e giustamente anche quelle sono armi, però sono libere, le puoi tranquillamente utilizzare quando vai lì a fare esperienza e imparare anche lì a Sassari al quadrato, e partono dalle 100, dalle 150 euro in su, ma sono belle lo stesso, e fatte bene col carrellino e le frecce tirando anche, ma sono molto molto belle. Io ho un'arburesa, che l'arburesa rimane tipo patella, però più panzuta rimane, no? C'è la pancia più grande. E quella lì Liliana la usa per tagliare la carne, perché la compra a pezzi e poi la fa lì. Prende dei pezzi di pollo, li prende interi, se li prepara lì, tutte queste cose qua, siccome è quella che taglia di più. Ma devi stare molto attento, Mietone, se ti scappa guai. La parte, diciamo, panciotta rimane qual è? Il manico? No, la lama rimane più panciutta, invece che rimanere sottile e lunga, rimane panciutta un po'. Ma non ce l'ho presente, è sempre tipica sarda. È di Arborea, Antonè, l'arburese. No, ti giuro, guarda, non ci ho fatto mai caso, comunque non ho mai visto, non proprio non ce l'ho presente. E quella lì è un bel filato. Taglia la carne come quella del macellaio, come il coltello del macellaio. Come lunghezza, quante? 5 dita, di più. E manna. Allora c'hai già una bella collezione, là, ci sono belle anche quelle. Adesso per dire, in questo periodo ce le avrei viste in queste feste, che ci sono sempre le bancarelle dei coltelli sardi. Io lo so, infatti mi tentano sempre. Solo che se ti trovano adesso portanotelo a casa, magari ti avvisano, perché non si possono ottenere, a meno che tu tieni un appartamento e li usi come uso domestico, ecco. Per dire, c'è quello di fronte a casa che va tutti questi mercatini dell'usato, vedrai cosa c'ha, si è fatto una vetrina apposta e la vetrina è anche antica, era novata, antica dell'Ottocento, quelle vetrine tutte quante elaborate, tutte intarsiate, fatte, e rimane concava, tu la apri e si vedono già da furie. Tra l'altro è una cosa spettacolare, c'è tutte le cipolle, gli orologi quelli antichi, di mille modi. In più c'è tutte le arburese, pattanese, tutti i coltelli della Sardegna. Poi cosa c'è? Macchine fotografiche, di quelle a pozzetto, di quelle antiche, di tutti i tipi. E no, anche a me piacciono queste cose, più di più la cipolla, Io ce l'ho una a casa che va grazie a mia moglie e mi piacciono moltissimo come orologi. Ho trovato una catenella per legare la cipolla e poi al pantalone. Mi piacciono moltissimo, più dell'orologio a polso, è la verità. Da piccolo mi sono sempre piaciute le cipolle. Io ce l'ho e c'è anche la catenella in argento. Vuoi riuscire a trovarmela? O lì dagli indiani, a volte sono queste catenelle belle particolari, oppure lì in gioielleria, giustamente in argento, già spendi poco, devo trovarla apposita per la cipolla. A me è sempre piaciuta, la verità. E ha una, mio padre, facevo sempre assillato per andare a regalare, ha il quadrante in ceramica, il quadrante in ceramica con i numeri romani, e anche le lancette sono abbastanza particolari, però senza tappo di chiusura, così frontale col vetro. Ed è molto antica, mi pare degli anni 30, una cosa del genere. E bisogna portarla a riparare, a cambiargli la molla. Guarda, sai quanto è bella? Lo sta sellando anni, ma ancora sono riuscito a convincerlo a dartela. Ma c'è un riparatore di orologi, e questo genere qua è tutti grandi marche, eccetera, eccetera. Lì dove c'è la chiesa del Carmelo, lo sai dove? Di fronte alla Sisa, a Corte Santa Maria. No, non c'entra niente. Quella lì è la chiesa di Santa Maria, non c'entra nulla. Allora, devi salire in via di Umberto. E visto che in via di Umberto poi per andare in via di Trieste di fronte c'è quel porticato. Sì, ce l'ho presente, sì. Ecco, passi sotto quel porticato, esci fuori dal porticato e vai verso sinistra, te lo trovi quasi di fronte. C'è scritto, diciamo, l'orologiaio, dai, apposito per questi vecchi orologi. Scritto riparazioni orologi grandi marche. Ecco, e ci passo, chiedo un po', sempre si riesco a farmela dare, la porto a riparare. Mi è sempre piaciuto l'antico, sono molto molto belle. No, quello che ho io è a carica manuale, la batteria non piace, mi piace a carica manuale. Antonio, ti sei perso allora quello che tu desideri, perché il giorno che io ti ho dato appuntamento al mercatino di Giuseppe, che poi tu ti sei addormentato giustamente perché eri stanco, c'erano tanti di quegli orologi a cipolla antichi, che guarda, c'erano degli uomini che stavano chiedendo cosa, c'era questo tipo di Cagliari che ne aveva un bel tipo. Prezzi, ti ricordi come erano cari, erano? Antonio, no, prezzi non ne hanno chiesto, li stavano solo guardando, gli hanno chiesto di che anno era, eccetera, eccetera, queste cose qua. Uno praticamente era degli anni 30, uno degli anni 50, ne avevano 59, gli ha detto, hanno 59. E di alcuni non sapeva manco di che anno erano, però dice sono molto antichi. E ce l'aveva un bel po', ed erano tenuti anche bene. C'erano degli uomini anziani, anche dei ragazzi che stavano chiedendo, deve essere condizionisti. Comunque a me mi hanno riflettito, ho comprato un disco, cazzo, ce l'avevo già. Ho fatto il doppione, Antonio, l'ho pagato 5 euro, c'era scritto 3 euro nel disco. Ho detto, quanto è che costa questo 5 euro? Chi c'è se può comprare? No, questo qui, di Dire Street, lo diamo 5 euro. Poi anche quello di Patrick Hernandez, che ce l'avevo già, io non me lo ricordavo, grazie che ho comprato lo stesso, ho speso 10 euro, che avrei potuto spendere 5. Quello già vuol dire che era molto senza ascoltare i dischi, sono travesti, li avete ricordato. No, io meno male me li ricordo tutti i dischi, io ne ho a casa, un po' tutti i giri li ne ho. E ogni tanto, quando capita qualche occasione, qualcosa che mi piace, vado lì direttamente al mercato delle pulci, un euro, la verità costano un euro, tutti i 33-45 giri, i già dischi ce l'ho perfettamente funzionante, e me li guardo, tolgo dalla custodia, controllo se sono in buone condizioni, l'acquisto e spendi un euro. Insomma, non c'è scelta. Cazzo, lì ho trovato tutti i dischi di Piper, come ti posso dire, The War, The Pink Floyd, tutti i dischi conosciuti un bel, capito? C'è una bella scelta lì, perché questi li comprano a Cagliari, capito? Ci sono dei mercati a Cagliari di dischi allucinanti. Comunque li stanno facendo i dischi, lo sai. Volevo dire, ho beccato l'orologio con la cipolla, Capital è la marca. Ah no, quello che c'ho io è, non ce l'ho la cipolla io, però è di quelle moderne. L'avevo regalata a papà prima di morire al compleanno. Lui mi ha detto: già, non ti offendere, ma cosa ne faccio? Ce l'ho l'orologio al polso, io non ne uso di cipolla. Non ti offendere, dice. No, ho detto: tieni, dai, mi fai... Sai, a una certa età non hanno più il senso, non prendono più gusto a nulla. Mi mette: oh, tieni da tu come ricordo. Come l'ha lasciata a me, capito? Ce l'ho ancora io. Quello già è vero, molti quando avevano una certa età, come mio padre, per dire, se ne comprava da ragazzo dischi, poi ha lasciato perdere, l'ha messo da parte, e meno male, prima ne ascoltava musica, adesso proprio non ho voglia di fare niente, sono stanchi, senza fare niente. Quanti anni c'è tuo padre? 56. Cazzo, è giovanissimo, sarà l'età così mia. Io ne ho 53, ha 3 anni più di me. È diventato un pantofolaio, guarda, perché sei andato in pensione, poi un pantofolaio. No, io indovino da quando so se ti ascoltare i dischi. Ma io la verità, tre volte alla settimana è sempre a sentire la dischi. E Sirgun me l'ascolto, e mi siede me l'ascolto, specialmente musica classica, dai. Io so se l'ha proprio ascoltato, poi ho finito col giradischi, ho attaccato il computer e mi sono messo musica anni 80, un'ora di musica anni 80 fatta da un DJ, praticamente tutta mixata, una più bella dell'altra, una più bella dell'altra, proprio c'è un orecchio questo qua, perché l'ha messa, è vero anche pare, cioè, l'ho scaricato, adesso non so se mi sia riuscito, lo scarico, ma penso di sì, l'ho scaricato. C'è YouTube, diciamo, quelle che iniziano e diciamo non si interrompono, tutta una tirata fanno, un passaggio e l'altro c'è il mixaggio alla fine. Sì, ci sono quelle che durano, c'è scritto un'ora, praticamente che dura un'ora questa qua. Anni 90, questa era anni 90, poi ci sono anche quelle che fanno gli spezzoni, no? Mi fanno sentire un pezzettino, poi attacca con l'altro. Questa qui però lo faccio sentire quasi tutta la canzone, poi arrivava quasi alla fine, tutto mi mixava e la univa all'altra, capito? La miscelava. Sì, l'avevo ascoltato l'anno scorso, ho fatto una ricerca e avevo trovato lì proprio questi passaggi, no, sono molto belli anche quelli, lo stesso, Poi sono andato a comprarmi il 2+1, la verità la mia intenzione era attaccarla all'apparato, però poi mi hanno sconsigliato di farlo perché dice che rovinava, siccome era amplificato rovinava la scheda audio, e allora ho usato una colonnina normale per l'apparato e mi sono attaccato quello lì al coso, al computer, al torrendo mio. Si intende che si gatti su Kenny, ma di Le Bose, insomma, guarda, lei alcune se le conosci. No, ma Le Bose, conosco, Vito Puntiano, Le Bose sono veramente impressionanti, guarda, sono delle ottime casse. Ma io lo so, io avevo un amico che è di quelli che gli piacciono gli stereo a pezzi, casse per dire Jensen, c'aveva 100 watt di quelle enormi, allora 100 watt le facevano grandi, tutte belle in legno, tutte Marantz come amplificatore, Technis i piatti, Tech le cassette, poi il sintonizzatore della Pioneer. E la moglie stava sempre rompendo le scatole perché dice che quando faceva la pulizia ora sta ascoltando queste casse, sai come sono le donne, si attaccano a queste cazzate. Allora lui ha ovviato, ha regalato quelle casse al cognato che gli stava facendo sempre la corte, e le ha regalate, ci ha comprato le Bose, ma tu devi sentire, toccavano quelle gesse, ma si Bose, due casse piccoline, un suono sub nascosto, e invece mia moglie si è fatto fare una cosa per le casse. Mi ha fatto fare questi carrelli con le ruote nascoste, in coso, in noce, i carrellini ripiani praticamente, che si mettono in terra, tu quando li sposti da casa la sposti, i fili sono più lunghi, pulisci e poi la rimetti al suo posto. È la cosa più giusta da fare, così non si stufano e alla fine tocca solamente spostarle. Io ho invece le casse della Quadral, la ce li ho due giorni, dalla marca della Germania, un sub, sì, anche per non male, sono 2.1 il sub da 200 con doppia membrana in una sola colonnina, no? Io ci mi entrano canale destro e canale sinistro in una sola colonnina, e in questa colonnina c'ha due membrane in una, e poi tre a destra e tre a sinistra della Quadral, e funzionano abbastanza bene, dai. E dove le avevi prese queste casse? Io non le conosco, boh. Ce ne ho anni, quando ero ragazzotto bene o male queste cose me le compravo, poi c'ho un amplificatore della Kenwood, non è che sia il massimo, comunque funziona bene, poi un equalizzatore grafico della Technics, e come sintonizzatore radio utilizzo una vecchia radio della National Panasonic, che è grande come quei modelli di amplificatori, diciamo come quello del tuo amico, sono tutti a pezzi divisi. Io utilizzo questa cosa qua, poi c'è la dischi della, aspetta che marca era, non mi ricordo, e c'è la dischi della Project, che utilizza una puntina della Ortofon. E io c'ho Sony come c'è la dischi, però l'unica cosa che c'è, Antonio, è che c'è l'amplificatore, c'avevo prima il mixer, e col mixer amplificavo, siccome io ho attaccato tutto al cubo, praticamente io c'ho il cubo della Panasonic, le casse Panasonic eccetera, c'ho praticamente tutto l'impianto con cosa per i CD che ha 8 CD, e poi c'erano le cassette, tutto quanto, e ho attaccato con l'uscita aux il piatto. Però praticamente questo piatto non è amplificato e ha bisogno di un amplificatore esterno perché è un semiprofessionale. Ma cosa ho fatto io? Ho comprato, quando c'era ancora in via Nizza, non so se tu l'hai conosciuto, quello che prendeva stereo, tutti questi impianti qua li prendeva lui a seconda mano, prendeva una cazzata. Mi aveva consigliato di mettere un mixer per amplificare, se toccava forte, poi questo mixer mi è partito, ho preso e ce l'ho buttato via, e ho attaccato un mixer che prendeva la GBC, non un mixer, un amplificatorino che prendeva la GBC, costava 35 euro, me l'ho attaccato dietro il mobile dello stereo e da lì prendevo l'amplificazione. Non è che amplifichi tantissimo, però non va male, diciamo che si sente abbastanza bene, solo che a volte fa questo rumore come se tu gli metti la mano sopra, non lo fa, dove se c'è problemi di massa. Ho provato a mettere un filo collegato alla vite e niente, a volte lo fa lo stesso, fa sempre questo rumore. Sono quasi intenzionato a prendere un amplificatore, se trovo l'amplificatore dal mercatino delle pubblici, mi volevo vendere quello del mixer 35 euro, però non so se è amplificato quello lì. No, io ho visto anch'io i mixer che c'ha, non ho nessun mixer amplificato, per come ho conosciuto io i mixer non ne ho mai visto amplificati, però quelli che hanno per forza bisogno di amplificatore. Sì, meno male qualcosettina la trovi già, se guardi bene qualche amplificatore c'è. Io una a casa, che ho trovato qua la discarica un po' di mesi fa. Ho provato anche ad attaccare la spina, sembra che le spine si accendono, della Tensai è la marca, è un big amplificatore, però la verità non l'ho provato a metterlo in funzione, per di più che attaccargli le casse e a mandargli una sorgente. Se funziona te lo do, te lo prendi. Molto grande. No, un tipico amplificatore come quello del tuo amico, dai, che è diviso in pezzi, ce l'hai presente? Un pezzo amplificatore, un pezzo sintonizzatore, equalizzatore, CD e compagnia bella. No, è abbastanza compatto, però bene o male c'ha quelle dimensioni lì, dai, alla fine. Perché potrei farmi uscire lo stereo con l'amplificatore e poi perché c'è cos'è, il 28 a fondo ce l'ha quello lì. Entrata della... no, già, allora, amplifica cassette, radio e giradischi. E poi giustamente AUX, se non ricordo male, dovrebbe avere AUX e ci colleghi qualsiasi altra cosa che vuoi, un telefonino, cosa ne so, un'altra radio, un altro giradischi, tutto quello che vuoi. La televisione, volendo. Poi la televisione puoi tranquillamente anche collegare nell'attacco del sottolizzatore, amplifica anche il televisore, non giustamente al giradischi, all'entrata a fone del giradischi, perché è un'amplificazione completamente diversa. Dici già lo so. No, Antone, ti correggo, io praticamente usavo quel mixer come amplificatore, l'ho amplificato a voglia, caspita, sto dicendo che mettevo al massimo i volumi del mixer e non lo lasciavo, l'ho lasciato fisso per un bel tempo ed amplificava l'uscita. Ma amplificava l'uscita perché regolavi i toni, i medi e i bassi alla fine, meno male c'è quella piccola amplificazione in quel modulo lì regolando i toni. Però se l'attacchi senza amplificatore non c'è nessun segnale, e se c'è è veramente minimo. Allora mi ha consigliato questo mixer, questo qui, metto qui gli attacchi, questo qui te lo amplifica tranquillamente. E l'ho amplificato bene, dico la verità, non so com'era, come non era, però era un mixer piccolo a 6 canali, piccolino, però buono, sincero, per AIVA era, AIVA. Sì, in questo mixer c'è, diciamo, un regolatore dove c'è scritto volume, in modo da alzare e abbassare il segnale. Sì, c'era la spia, il volume, i toni, i canali, il microfono, tutte queste cose qua. Era piccolino ma sincero, ti sto dicendo che andava bene. E niente, poi alla fine si è rotto e l'ho buttato via, non l'ho fatto aggiustare, dico la verità, perché avevo pagato, non mi ricordo se me l'hanno lasciato 100 euro, se poi va aggiustato ti prendo anche 100 euro, non ti conviene a comprare uno nuovo, ce l'ho buttato perché era partito. E l'unica cosa che c'era era che ho dovuto comprare un trasformatore, perché poteva andare sia con la batteria sia il trasformatore. E prima o poi l'ho usata a batteria, poi l'ho comprato il trasformatore e l'usavo col trasformatore, probabilmente perché il trasformatore mi ha fatto un massimo. Sicuramente, guarda, adesso lunedì non ce la faccio, martedì dovrei avere molto più tempo e lo controllo, se funziona sale te lo prendi o scende te lo do, uguale, se non ricordo mai dovrei trovare, diciamo, fanculo, un pomello perché ci manca un pomello e basta, meno male riesco sempre a trovarli su, se funziona te lo prendi. E Antonio, ti ringrazio, perché quello lì non mi piace, fa troppo rumore. Amplificare già amplifica, perché un po' amplifica, ma non è esageratamente, potrebbe fare molto di più. Sicuramente c'è qualche piccolo problema, non buttarlo nel caso quando lo vai a qualcuno e ti dà una controllata, ma speriamo che funzioni quello, così te lo prendi. Non è che, diciamo, giustamente te lo metti nascosto nel mobile, no? Perché se mi ricordo male non c'era niente lì in vista. Sì, lo metto sotto al giradischi, metto quello lì, ma è molto alto. No, qualche punto potrebbe essere alto, 10 centimetri, 13 centimetri, una cosa del genere, lungo quanto sarà? Penso 45-50 centimetri, di profondità dovrebbe avere un 20 centimetri, dai. Allora fai 15 per 10 per 20. Semplice amplificatore che si usava all'epoca, dai, che potevi staccare dal tuo impianto, che potevi separare un pezzo dall'altro. Ho capito, c'è una bella la cista, perché l'ho fatto fare un po' più alto, di modo che se dovevo mettere qualcosa sotto potevo metterlo, capito? Quindi ci dovrebbe stare. E la marca è Tensai, se non ricordo male, e ne ho visto tante altre di quelle, non mi ricordo se era giapponese o cinese, ma dovrebbe essere degli anni 80, buono, buono, buono, anni 80-90, non di più. Bisogna anche dire una sguardata un pochino, ma avrei voluto fare un bel impiantino, mi piace più così che il cubo non mi piace assai. Ma guarda, avevo sentito questo tecnico che mi fa, guarda, sinceramente tutte le radio che vendono adesso in commercio, la maggior parte è mondezza, si bruciano in pochissimo tempo, ultra leggere, apri, dice dentro non c'è niente, stranamente funziona, e poi ti durano uno, due annetti e devi buttarla perché non ne vale neanche la pena aggiustarla. Poi veramente dice, si vuole ascoltare della buona musica, cerca di farsi un impianto compatto, no? Con diversi pezzi abbinati, giustamente, e se ne è bravo anche in queste cose. Però i componenti divisi da un'azienda all'altra li unisci insieme e ti esce un bel impiantino, è bello da vedere, e poi è abbastanza complesso e sono pezzi che tranquillamente puoi riparare. Ehi Antone, gli impianti buoni sono tecnici come piatti, Marantz, l'amplificatore che è uno dei migliori, e poi c'è il Pioneer come sintonizzatore, coso, va bene, anche la Tech fa dei buoni amplificatori. Tech, li hai mai sentito? Sì, e se non ricordo male ho visto anche un sintonizzatore sempre della Tensai, adesso che sto facendo memoria, lì al mercato delle pulci, se non sbaglio doveva costare 15 euro, tutto grigio, si presentava molto molto bene, grafi no, non ne aveva, un sintonizzatore AM FM, veramente bello. E vedi, quelle cose sono belle. E se mi metto in testa di farlo, ma lo faccio, mi elimino uno e buon gulasso. Cioè l'elimino, l'altro magari lo metto in camera di manuela, boh, non lo so. E lo teniamo così senza mobile, capito? Ti metto due casse, due più uno e via, e sta andando. Sì, infatti, poi conviene sempre cercare l'occasione, perché bene o male adesso chi ha questi impianti? Molte persone non ne frega più niente, dunque li mettono via, lì diciamolo, sanno che c'è questo posto, li portano lì pur di non gettarli e si acquistano qualche piccolo compatto, ma sinceramente è un'altra cosa. E se un infortunato vai oggi, vai domani, trovi l'occasione, riesci a fartelo il compatto. Giustamente non sarà come la Tecnis, se meno male trovi anche quelle marche lì, che non credi che all'epoca facevano degli ultimi prodotti, lasciando perdere la Rex, perché anche la Rex faceva amplificatori e radio, ne ha avuto uno da ragazzo, l'avevano regalato, per carità, tecnicamente faceva schifo, il suono era pessimo, la Rex, e faceva anche le lavatrici, poi fortunatamente non li ho più visto, è fallita quell'azienda, però meno male riesce a trovare di quei compatti, ok, Bodo, Tecnis o Pioneer, meno male ho questi Tensai, ne ho visto molti di questi modelli, e meno male, dai, lì c'è una via di mezzo, ecco, riesci meno male a, diciamo, a fare qualche bella composizione anche lì, non spendendo poi così tanto, li trovi a 10, 15, anche 20 euro, meno male un pezzo oggi, un pezzo domani e sei a posto. Io mi ricordo che mamma aveva un televisore della Rex, ce l'aveva 21 anni, una cosa del genere, e siccome erano usciti i televisori a colori, mio padre non le voleva comprare perché dice quello funziona, non c'è bisogno di, sai come erano gli anziani, no? Funziona, non c'è bisogno di... E però c'era il tubo cattolico che piano piano si stava esaurendo. Ha chiamato il tecnico, se l'ha portato via, gli ha caricato il tubo cattolico e andava di nuovo alla grande, ha detto una bagaglia tua. Allora cosa ho fatto io? Ho preso, quando loro erano a letto addormentati, dopo pranzo gli ho staccato il filo. Ah, il coso tecnico ha detto può durare altri 2-3 anni, come può durare da oggi a domani, quindi non gli do nessuna garanzia perché il tubo cattolico è così. Fatto sta che quando erano addormentati te l'ho staccato il filo della corrente, se va attaccato, accidenti, è partito il televisore, non funziona più. Papà adesso bisogna comprarla a colori allora. Certo, adesso se lo compro a colori, l'ho presa a colori tutto contento, se sapevo che l'avevo fatto io. Almeno diciamo, è rimasto contento. Sì, prima ero così. Anche io li ho conosciuti, divisioni bianco e nero della Indesit. A casa avevamo il divisore della Indesit, il valvolare, ogni barrosone che faceva doppio vetro, anzi non doppio vetro, un tubo catodico e poi il vetro leggermente oscurato, abbastanza spesso, non lo ricordo bene. E poi i regolatori verdi, Dio mio, è una cosa impressionante, è una pulsantiera incredibile. Ogni volta che dovevi cambiare cane, per forza ti dovevi alzare. Però ugualmente, dai, c'erano, ci pensano dei bei tempi. Vabbè, ci prendeva con Claudima, ma anche i televisori spagnoli, francesi, ci aveva le frequenze sopra, si faceva lo scatto tac, tac, tac, con una rotella, era grande, c'era presente. Esatto, erano abbastanza rumorose e dure anche quando dovevi girare, sì, me lo ricordo. E prendevo televisori spagnoli, francesi, un po' tedeschi, un po' tutto prendevo. E poi c'aveva una specie di cosa che si accendeva la luce, tipo un trasformatore grande sotto, non l'hai mai visto qui. Che c'aveva, allora era tutto marrone, avevamo anche quella a casa, ero piccolino, avevo 6-7 anni, e quando avevo queste cose, guarda, mi illuminavo gli occhi, era pesantissimo, marrone e una maniglia, anzi non marrone, quello con il pistacchio oscurato e una maniglia marroncina, sì, quello l'attaccavi da 220, e poi c'aveva, diciamo, la spina per il televisore, se non sbaglio era un, come ti posso dire, un fanculo. Un che funziona aveva quello di una forse di una delle sbalze di tensione, una cosa del genere. Un raddrizzatore di corrente, può essere. Ma meno male, c'erano anche, per esempio, se tu attaccavi la radio nelle prese normali anche all'epoca, non avevi bisogno di quello. Non lo so, stranamente era per quei televisori dell'epoca, lo sai che non so cosa servivano veramente, non credo che sia un raddrizzatore. Forse per gli sbalzi, che ne so, o un accumulatore quando mancava la luce, non so che cosa era, però mi ricordo il pezzo, però non mi ricordo che cosa servisse. E comunque, dei tempi, il carrello per il televisore con i vetri. Leggio, un ripiano in vetro, gambe strette, snelle e quattro ruote che quando si bloccavano con la polvere ne aveva voglia di spingere. Sì, già apposito per il televisore. E sotto, diciamo, nel ripiano in basso c'era quello che chiamiamolo stabilizzatore, dai, alla fine. E quel pezzettino abbastanza pesante che rimaneva lì al centro, col centrino, perché prima mettevano prima il centrino e poi sopra il televisore e altre apparecchiature. Beh, mamma, i centrini poi da tutti i bassi, al centro tavola, e tutta la mia moglie mi fa la mamma, è bravissima a farlo. Ha fatto quando ci siamo sposati tutta la, come si chiama, il copriletto. Già ci ha messo un anno, mi pare, per farlo. Sono cose belle, molto decorative e tipiche sarde. No, non ricordo bene, bianchi, puliti, ben stirati e poi tutti gli oggettini più possibili, immaginabili, diciamo, per mettere in mostra, no? E abbellire la casa, no? E bei tempi, belli, belli veramente. E poi eri costretto giustamente ad assorbire il telegiornale, perché quando pranzo e cena era la compagnia, se non digerivi, dunque dovevi assorbirtelo. E poi aspettare che i tuoi finivano di guardare i loro programmi preferiti e toccava a te quando la fin fine era finito, perché meno male che lì all'epoca i cartoni animati davano dalle 2 alle 3, sì, sempre dalle 2 alle 3 o massimo alle 5. Dunque tra una cosa e l'altra tu da ragazzino lo guardavi quelle 2 o 3 ore, non di più. Mi ricordo mio padre. Se c'era qualche film d'amore, roba del genere, che si baciavano ripetutamente così, mia sorella ci guardavamo e ci facevamo un sorriso d'intesa, nel senso, se ci vedeva mio padre, andate a letto tutti e due, spegnete il televisore, queste porcherie non le voglio vedere. Sì, vai a letto, le cose prima non sono cose da guardare, io muoviti immediatamente, mi abbassavo subito il volume che l'educazione è strana. Comunque poi la fine è cosa di ogni giorno, ecco, tutto lì. Comunque poi ugualmente là sono dei bei ricordi. Bene o male l'educazione era quella, diciamo che le facce vanno mano spudoratamente, ecco com'era la situazione. Invece adesso vedi ballerine che si mettono il culo quando ballano, aiuta, è anche troppo, diciamo la vita, ci piace vederle però è esagerato, è per gli occhi dei bambini, di chi, dei bambini che guardano certi programmi non va bene. Ah guarda, io bene o male la vedo in un modo diverso, c'è poco da fare, si sa bene come siamo fatti, non capisco più sempre perché bisogna nascondersi. Ha dato male così, sì, prima c'era, forse molta più, non lo so, io la vedo un po' una leggera ignoranza, un po' di pudore, non capisco poi perché cosa, quando siamo fatti così, cosa bisogna nascondersi, So, sì, a volte sono delle situazioni che un po' esagero, la verità, sempre per i più piccoli, ma è sempre un corpo umano, alla fine non è che lo deve per forza pensare al male, siamo fatti così, perché bisogna nascondersi. Ecco, tu, io dico di fare programmi a culo nudo, finalmente d'accordo, ma alla fine non lo vedo una cosa così grave, forse la pensi così o bene o male, anche io leggermente, perché mi appunto con l'educazione, ma alla fine non c'è niente di male, ecco. È una cosa naturale, ma allora per questo dovremmo uscire tutti nudi, come fanno in Africa. In Africa fanno così, si mettono la foglia davanti e le donne escono a tette nude e cose. È un po' da indigeni, dai. Siccome noi ci hanno insegnato a coprirci, forse è quella l'educazione che ci hanno dato, non è una cosa magari che non è natura, però diciamo un po' di ritegno. Penso che ci voglia, non è una cosa bella come fanno adesso che si mettono tutti nudi con questi periodi. Ho visto, Antonio, a proposito, su Facebook c'era una vignetta, c'era questo tipo che ha visto questa tipa al mare che aveva il perizoma ed era praticamente a pancia a terra, lui si è inchinato e ha fatto finta di pulirsi i denti, perché lo chiamano filo interdentale, no? E la moglie gli ha detto, la moglie a questo qui gli ha detto, vai, finisci di pulirti i denti, continui a casa. Cosa significa? Già fa piacere queste cose, vedi? E lui con la scusa di pulirsi i denti, capito? Stava palpando la moglie, la finisce di pulirsi i denti che già te devi pulirci a casa. Sì, ma per quanto quel discorso di prima, giustamente, diciamo, queste idee sono sempre condizionate dall'educazione, però, vedi, a quelle parti gli indigeni non ci trovano niente di male, comunque alla loro vita non ci sono pudori, è tabù. Nei sguardi indiscreti perché sei grasso, magro, c'è le tette grandi, piccole, qui è impressionante, ti guardano qualche buco da sedere, è per sempre in base anche all'educazione che secondo me ha portato anche a questi livelli, secondo me dovrebbe essere già passati, siamo fatti così, qual è il suo problema? Tutto lì, e invece no, ci sono sempre da dire anche per il fatto fisico, invece sicuramente da quegli indigeni problemi del genere guardano se ne mettono. Vedi, in queste cose, bene o male, sono arretrati da una parte ma avanzati dall'altra, ecco, hanno larghe vedute in confronto a noi. Questo è il mio modo di pensare. Allora, vedi, una cosa, una volta al mare stavamo mangiando, bevendo, eravamo tutti in greffa, si avvicina questo ragazzo di colore per prenderci la roba, ha detto, no, guarda, non ci serve nulla, però se ti vuoi sedere e mangiarti qualcosa, te lo offriamo. E gli ho detto grazie, molto volentieri, è stato educato, l'abbiamo fatto da bere, ci ha chiesto se era maiale, la carne, gli ho detto no, è mandorlo impanato, ma non è maiale. E va bene, ha mangiato il panino, tutto quanto, poi ho visto questa amica mia che è molto robusta, e gli ha detto tu da noi vali 100 cammelli. Perché era bella pienotta. Non so che loro barattano le donne come i cammini. Se più è cicciona la donna, è più piacili. Ah, e quindi? E dunque già... La stava già barattando, stava già facendo lì di là. Questo quanto ci è rimasta male, ridendo. E poi adesso diciamo sempre 100 cammelli. Corretta, poi giustamente lui ha detto, diciamo nel senso buono, era, per lui era una cosa normalissima. Non se ne è accorto che lì è rimasta male. Lui ha detto che da loro è buono essere così. Le donne ne vogliono molto tittone, robuste, perché devono, quando ballano le cose, si devono vedere quando si muovono. Hai visto già, mi sa che bisogna trasferirsi in Africa. Io guarda la verità, oggi quando sono andato a rivedere le bancarelle sono quelle donne di colore, guarda che sono di una bellezza incredibile, ne ho trovato una brutta, un fisico che guarda statuario e dei visi bellissimi, guarda mi piacciono molto quelle di colore, veramente tanto, e a Sassari oggi siamo veramente una più bella dell'altra e tutte profumate. Io ne avevo una di fronte a me che era una brasiliana sicuramente, che aveva un vestitino leggero e che il vento glielo faceva muovere, era veramente una bella ragazza, veramente carina, ed era con un tipo, sicuramente erano turisti e non era di quelle brasiliane, di quelle amiche, di quella persona che conosciamo, era una turista sicuramente, era col tipo che aveva un cappello di quelli grandi, tipo cowboy, dai. Capito, ma quello che voglio dire io dovrebbero essere africane, vero? Cioè? Senegalesi, sì, sono del Senegal, quasi tutte del Senegal sono. E comunque sono molto belle, mi piacciono tantissimo, guarda. Sì, ce ne sono molte carine. E anche loro ci sono quelle brutte e quelle belle, non è che come da noi. Ci sono gli uomini brutti e gli uomini belli. Ma poi questo qui mi ha guardato un bel male, questo negro. Roba di cosa. C'era Marco che era tre ore, le figurine. A tutti i costi voleva queste figurine. Ho detto Marco, cerca di capire, papà non c'ha soldi appresso oggi, ce l'è a casa ma qui non ne ha. Ma le figurine, ma come le figurine, alla fine mi ha fatto il cassetto, vuoi smetterla sì o no? E c'era questo qui di colore che mi ha guardato un bel male perché l'ho sgridato, te l'immagini? Sì, sicuramente ho visto che, ma aspetta, queste figurine non le vendeva questo senegalese, no? Era un'altra bancarella. No, le figurine le voleva comprare all'edicola e costano 4 euro il pacchetto, Antonio, a me, anche se ho i soldi, non mi va di buttare via i soldi così. 4 euro, sono 4 euro, per un pacchetto di figurine non ne vale la pena, i Pokémon costano così. Guarda, già che ci diamo una mano. Sì, alla fine, io già da una parte giustamente la capisco mia figlia perché sicuramente anche tu tuo figlio 11 anni e queste cose per loro, dai, sono cose nuove, da lì si divertono anche con poco, è la verità. Ogni tanto ci può stare, non sempre giustamente, sono per loro la guida ogni giorno. Sì, però anche a me quando vedo queste cose dice, ma adesso non è il momento, Paolo. Queste 4 euro guarda, ci mangiamo, guarda, prenditi un panino, prendi un panino, qualcosa da mangiare da bere, che non le figurine. Tanto ci giochi 10 minuti e poi li butti, prendi qualcosa da mangiare. E lei insiste, giustamente, quando non è, quando è no, è no. Tu da una parte le capisco, giustamente i bambini, purtroppo dovrebbero capire anche noi un po' com'è la situazione. E succede anche a me, ma comunque, se si può, quando c'è la possibilità, e si compra un pacco e ogni due o tre mesi, e gli avanti pure un pacco. Sì, Antonella, ma io glielo compro di tanto, ma non può stare sempre tutti i giorni assidante, comprami le figurine, me le comprate le figurine, ma non è che ti assidano. E poi se tu ti fai un esame di coscienza dici 4 euro sono 4 euro, non è che un pacchetto di figurine, non ti sembra esagerato 4 euro, 4 bestie bambino, Gli ho comprato stamattina la Coca-Cola, il tramezzino, le patatine, però le figurine no. E già va bene, sperando che non ti abbia fatto il muso tutta la sera, che sei già contento almeno del mangiare, dai. Era tutto, era tutto il giorno incantato. No, poi quando ha mangiato gli ho tranquillizzato. Prima gli ho comprato le patate, mi ha portato, devo portare in un posto papà. E non mi ha portato dove ci sono quei distributori di patatine, merendine, tutte queste cose qua. E avanza il bilo di patatini. Un pacchettino di patatine Minion, Antonè, un euro. E la socia, i distributori, ma erano anche fresche, perché c'è una bella temperatura fresca lì, sì, un euro, poi per il minimo ti fai due passate di vita all'interno, no? Ci mettiamo dentro per due volte nel pacco, poi guardi, sono già finite, lo so, un euro. Noi siamo andati al bar, ho detto, ma quelli cosa ti prendi? Un tramezzino, perché c'ho fame, torno, la magna, vabbè, prendo il tramezzino, e da bere ho detto, me la vuoi l'acqua semplice o gasata? No, acqua non è voglio, voglio la Coca-Cola, vabbè, prendo la Coca-Cola, accontentato, non è che non l'ha accontentato, però per le figurine non sono molto d'accordo, perché poi non sono... continui facendo una cosa, magari ne esce un'altra e prendono e comprano le altre, capito, no? Io quando facevo le figurine le facevo dei giocatori e l'ho spiegato a Marco, prendevo, c'avevo le doppie, andavo e giocavo a figurine a soffietto, pigliavo le soffietto anche 100, a tre reservi quelli che vinzio non le comparavo mai. Noi la stessa cosa, noi facciamo a falavala, lo chiamavamo falavala. Leggermente le piegavi, poggiavi nel muro a una certa altezza e poi le facevi cadere. Secondo che riusciva, ognuno se la giudicava, dai, si giocava così. Però bene o male c'era molto più giro, avevi più possibilità di scambiare figurine. Adesso con chi le scambi? Io invece con dei calciatori facevo quello degli animali. E bene o male qualcuno è riuscito a finirlo, è la verità. Però se mi ricordo male costavano 200 lire il pacchetto. 5 figurine costavano 50 lire quando le prendevo io, poi non lo so, vabbè, comunque a Città Mercato, se tu le vuoi scambiare figurine ci sono, visto dove c'è quel fuoco finto, il fuoco finto dove c'è, dove vendono le stupi a pellet, esatto. Lì ci sono dei raccoglitori, c'era scritto oggi cambiamo figurine, dalle 5 alle, per dire, scambiamo figurine. Ci ho fatto caso, lì c'è un addetto proprio apposita per queste cose, così, ma c'è sempre stato questo. No, l'ho visto l'altro giorno, Antonio, dico la verità, l'ho notato l'altro giorno, mi sono preso il gelato e ho visto che c'era questa macchinetta, questo raccoglitore, diciamo così. Ah, ecco. Ah, vedi, in questo caso lì, diciamo, hai più possibilità di finirlo. Tu sei sempre lì ad acquistare finché puoi. Riesci a finirlo con un sacco di doppi che alla fine non te ne fai niente. No, comunque, beh, io mi ricordo 200 lire venivano, quando ero ragazzo io 200 lire. E facevo quello degli animali, poi giustamente i miei amici, che erano molto più appassionati per il calcio, a me non mi è mai piaciuto. Solo animali facevo. Poi io ho fatto animali, ho fatto figlio di album, capito? Io ero molto attento a queste cose, mi piaceva finirlo, finché finivo uno non iniziavo l'altro. Invece lui non è coerente, praticamente c'ha mille figurine, lampade tutte le basi, in terra, da tutte le parti. Perché lui le tiene bene, c'è il raccoglitore, c'è tutto questo, poi vengono gli amici, fammela vedere, questa vale tanto, quest'altro vale tanto, ma la dai questa, ma la dai l'altra. E tu cosa mi dai? E scambiano, capito? Si scambiano le figurine. E Marco vede, capo, mi ha dato due che costano un bel, papà, guarda su internet, ci sono carte che valgono 20 euro. Vedi questi Pokémon così, o dei gormiti? Pokémon. Questi dei Pokémon, ci sono, che valgono anche 20 euro, capito? Su internet ci sono i prezzi delle carte. Ecco, diciamo bene o male, e poi giustamente c'è sotto c'è il gioco, non è che diciamo solo le collezioni, anche la possibilità di giocare. Sì, giocano con queste carte e naturalmente devi trovare l'amico che ha la faccia, perché lui c'ha un amichetto che abita qua nel mio palazzo, anche se i genitori sono un po' particolari, lo puniscono per un po' di mesi, non lo fanno uscire, cose. Comunque giocano molto spesso insieme e scambiano le carte, capito? Sia uno che l'altro hanno la collezione, giocano con Nintendo, con chi si urlata, a volte dico perché non lasciate giù il cortile, che oggi è una bella giornata, prendetevi un po' d'aria, che vi fa meglio che giocare qua con Nintendo DS. Quello che dico a mia figlia, se lo puoi lei visita, glielo prendo e glielo metto da parte, io scendo giù a giocare e la mando giù. E li prendono molto e dicono che va bene, sviluppano molto il cervello, così dicono questi giochi, ma allo stesso tempo stai buttando una bella giornata di sole a correre, diciamo, e a fare una chiacchierata, che è totalmente molto più salutare. E la mando giù direttamente, non vuoi scendere, la faccio scendere apposta. Glielo prendo da mano e glielo nascondo e glielo metto via per mesi, la verità è, spero di essere così tanto severo, comunque glielo metto via per mesi. E lì ogni giorno gioca, poi, dopo due o tre mesi lei si ricorda che ce l'ha e glielo do. E anche noi facciamo così, non per mesi però, una settimana, la punizione, eccetera. Perché lui è l'unica cosa che, a cui tiene, ci mette a gridare quando se lo prende, poco grida, ma non ce ne frega nulla, lo prendiamo lo stesso. Se non fa quello che diciamo noi, bisogna punirlo, c'è poco da fare. E niente, io preferisco vederlo giocare giù e fate perdere, secondo me questi Nintendo qui sì, li sviluppano il cervello, quello che vuoi, fanno bene, però sempre gradatamente, perché se tu esageri poi alla fine ti rincoglioniscono, ti rendono ciabattone, vuoi stare a casa perché devi giocare con Nintendo. Stamattina non volevo avviare la cavalcata, no, oggi usciamo perché tu non devi segregare a me in casa, per colpa tua non devo uscire io, no? Oggi usciamo, mi sono impuntato. In macchina gli ho detto, mia, adesso mettiamo la macchina qua perché poi parcheggio lì vicino, non ne troviamo, ci facciamo una passeggiata. No, a piedi no, a piedi no. Alla fine mi ha fatto andare e due sculaccioni glielo ho dato. Ho detto, oh, cosa devo rovinare la domenica? Adesso ti devi tranquillizzare. La dice tranquillizzato, è stato buono, tranquillo, tutta la mattina. E come ho conosciuto io sembra, diciamo, abbastanza tranquillo, da un sonnecchione, così un tranquillone, ma anche lui fa i capricci, dai, sono contento. No, già si è più bella, a voglia. Anzi, anche tu quando è, ha preso questo vizio di gridare, adesso magari sta formando il carattere, cosa. Se gli fa qualcosa che non gli va bene, che si mette a voce. E giustamente sta cercando di far valere le sue idee, giustamente. Vabbè, è normale, sta crescendo. E poi anche è bello, anche mia figlia lo fa, io da una parte, sì, mi arrabbia, tu dentro mi metti a ridere perché dai. Sì, forse quasi un pochettino a volte sono esagerato, e lì giustamente si deve difendere, no? Ma io mi faccio il segno, tu dentro sto sorridendo, perché mi ricordo quando io ero piccolo. Ma questo è tanto solidario del pesce, quindi si stanno formando il carattere, capito ancora. Ma sì, bella. Lo so. E allora più si inibili, più si arrabbia, io lo faccio più apposta, finché poi non ce la fa più, prende, se va in camera sua e si mette a piangere, e poi già rimbalza, dopo 5 minuti riesce. Non è un problema, col sorriso, e allora cerca di richiedere un pochettino più calma le cose, allisciandole, capito? Ma Marco è capace anche di chiedere scusa, e se sbaglia chiede anche scusa. Sì, anche quello mia figlia, assolutamente. Anche lei, quando mi chiede scusa, giustamente, si calma lei, mettiamo a parlare, piano piano, cerchiamo un po' di capire, giustamente, per arrivare a un compromesso. E aspetta, quando c'è la possibilità, aspetta, tutto lì. Il discorso è sempre quello, però sempre cercando di farglielo capire nei modi migliori. Poi ogni tanto una litigata ci vuole, così si rafforza il rapporto tra madre e figlia. Beh, certo che sì, non per fare le passare se finiscono. Beh, assolutamente no, eh. Ma sa buono che manchendomi. Tu hai sonniduse, giustamente ormai devi andare a lavorare. Non c'è problema, Tony. Ma lo sai che stamattina c'erano i bambini vestiti da corso, come si chiamano? I nerdures, quelli lì, ce le prese di quelli che lanciano la corda e tornano la gente. Sì, aspetta, è una specie di mammutones. Sì, quelli lì. E praticamente sono quelli che continueranno a farlo. E c'erano i bambini piccolini, anche, capito? C'erano tutti i bambini piccolini. Facevano anche loro questo rituale, dai. Sempre lì a Porto Torres. No, alla cavalcata. Cavalcata? No, non l'ho vista. Poi c'era un asinello, quanto era bello, piccolino. Tu sei andato direttamente lì o l'hai visto in televisione? No, ero lì. Sono andati con Marco, anche se non voleva venire. L'ho parlato lo stesso. Beh, gente ce n'era, sì, verso quell'ora, quando diciamo durante la sfilata. Era pieno. Ma me l'immagine era abbastanza pesante, beh, non c'è neanche la possibilità di muoversi. Sì. Se trovato che stavo andando all'emiciclo a prendere quel mercatino, ce l'ho fatta. E com'era stasera alla fine? Dai, era impressionante. No, ma vedrai, il prossimo anno. Punto a Porto Torres, vedrai che passi una bella serata, una bella passeggiata e vedi quello che c'è senza spintoni e cose varie, no, prossima a Porto Torres. E quest'anno vacanze per le estive, sempre se l'estate viene già. Ah, dove da questo lunedì, invece abbiamo un altro mio collega e a me non lo so quando me ne daranno. Non lo so, d'estate non ce la danno. Ah, ecco, solamente la fine può andare fine settimana, dai. No, lunedì ce ne danno, no? Ed ha preso questo mio collega, praticamente avrei dovuto prendere questo lunedì, siccome non ne ha preso due settimane e me lo brucio lunedì. E dovrei andare dalla prossima. Scusa già, sta chiamando un attimo mia moglie. Allora. Devo chiudere, mezzanotte meno 10, domani sarà alle 6, devo chiudere alle 11. Vabbè, devo chiudere anch'io, ci sentiamo, buonanotte, animi se ci sentiamo domani, dai, ok? Facciamo così, appena finisco ti chiamo direttamente, prima di partire in paese, da Ossi. Cazzo, ti giuro, credo che erano le 11, mezzanotte meno 10, e ieri, anche Paolo è sveglia, domani deve andare anche a scuola, adesso la corichiamo. Va bene, grazie delle due, già, delle due chiacchierate, ci sentiamo domani allora, dai, buonanotte. Sì, dai, ciao, ci sentiamo, no? Buonanotte a tutti. Sì, amici di buco. Poi ti lamenti che non entrano gli altri, eh? Ti lamenti, no? Ti piace ascoltare, la mano ti stavamo conciliando. No, sai cos'è? Sono tornato alle 10:30 passate da Porto Torres e sono un po' stanco, ero a letto praticamente con chi stavo ascoltando. Dici, capo, va bene, buonanotte, ci sentiamo che sto chiudendo. Buonanotte, ma con conto. Buonanotte a tutte e due, e ci sentiamo la prossima. Io me ne vado a letto prima oggi. E domani c'è da lavorare, ciao.